Allora, come già annunciato, domenica 4 maggio c'è questa serata Notav con cena vegan, proiezioni, letture e discussione presso i locali occupati di via Ostienza 137, la sede delle Cagne Sciolte. Noi abbiamo il telefono una compagna con cui lanciamo, insomma, parliamo un po' di questa iniziativa di sostegno alla manifestazione che si terrà il 10 di maggio, più che altro per organizzarsi e dare la possibilità a tutti e tutte di prendere parte a questa manifestazione salendo coi pullman. Allora, ciao innanzitutto, e ecco, ti chiedo di descriverci un po' questa iniziativa di domenica. Sì, in pratica noi abbiamo pensato, anche in corrispondenza del Notav Tour che si terrà alla Facoltà di Fisica della Sapienza lunedì alle 17, di organizzare questa iniziativa verso appunto lo spazio occupato delle Cagne Sciolte a partire dalle 18, in cui inizialmente proietteremo un video sulla resistenza, sulla repressione attualmente che sta colpendo attualmente gli attivisti e i compagni e le compagne della Val Susa, in particolare sul reato di terrorismo che ormai viene utilizzato, diciamo, a partire dalla valle un po' per colpire tutti i focolai di resistenza in tutta Italia. E a partire da quello, insomma, proveremo a portare avanti un po' una discussione tra tutti quelli che vorranno partecipare, e poi a seguire avremo dei reading e la cena appunto vegan della trattoria La Puttanesca, che insomma ogni domenica ci viene appunto alle Cagne Sciolte. E appunto il ricavato della serata andrà interamente a sostenere il costo complessivo degli autobus che da Roma porteranno tutti e tutti a Torino il 10 maggio per la manifestazione. Certamente. Senti, hai già un'idea di quante adesioni riscuote, insomma, la manifestazione, visto che vi state organizzando, diciamo, un finanziamento per coprire le spese dei pullman? Magari avete già una, magari solo a livello di proiezione, però un'idea di quanti si stanno preparando per partecipare a questo appuntamento del 10? Guarda, una proiezione io personalmente no, però sicuramente siamo in tantissimi e tantissimi a voler partecipare. Tra di noi, appunto, tra le Cagne Sciolte saliremo in molte, insieme a tanti e tanti altri compagni con cui stiamo organizzando, insomma, questa cosa. Quindi saremo tanti, mai abbastanza, però tante persone. Assolutamente, è il caso che ci siano tante persone a manifestare, anche perché, insomma, occorre dare un segnale forte rispetto alle autorità, alla procura di Torino, a quanti, insomma, stanno perpetrando attraverso gli atti giudiziari, insomma, e le varie inchieste aperte, un piano del discorso che è assolutamente da rifiutare, quello che vede appunto quanti si battono contro la alta velocità essere equiparati a dei terroristi. Sì, anche perché comunque la valle, l'abbiamo visto benissimo, è un laboratorio di repressione, è proprio il focolaio della controrivoluzione preventiva, quindi ci riguarda tutte e tutti, sia perché siamo su complici solidali, insomma, con gli attivisti No Tav, siamo tutte e tutti No Tav, ma anche perché ci riguarda in qualsiasi cosa facciamo nella nostra vita quotidiana ormai. Senti, allora, domenica 4 maggio, appuntamento alle ore 18, ok? Va bene, grazie, ciao. Ciao.